Presidente. Complicata stasera. Stasera un po' impicciato, sì. Provare a dare un po' un escurso storico di che cosa è stata la protezione civile e di che cosa, di come è andato nella storia. Qual è stata l'evoluzione della protezione civile? Ci sei, Luca? Eccolo. Cioè. Io ci sono. Eccolo. Allora, riproviamo per la quarta volta. Ok, perfetto. E riproviamo. L'idea è quella di come si è... un excursus sulla protezione civile. Esatto. Cioè, dal punto di vista storico, come è nata, da quale situazione... Vai. Ti sento molto lontana. Non so se potevi alzare un po' quel volume... Sì, proviamo. Comunque, ecco. Di fatto l'importante è che mi sentiate voi. Di fatto la Protezione Civile è un organismo dello Stato abbastanza recente, nel senso che la sua costituzione si inizia a strutturare negli anni 80. Precedentemente le grandi eventi del Novecento, come il terremoto di Messina, quello di Avezzano, l'alluvione di Firenze, fino al terremoto dell'Irpinia non hanno visto un organismo di protezione civile così come lo conosciamo noi adesso. Basti pensare che al terremoto di Messina nel 1908 arrivarono per primi i soldati di una nave russa che stava davanti ormeggiava davanti Reggio Calabria, e poi i primi soldati arrivarono dopo 2 o 3 giorni in città. Quindi di fatto nel corso del tempo si è sentito sempre di più l'esigenza di dotare lo Stato di un organo di intervento in eventi di questo genere, e di fatto negli anni 80, ad opera di una figura che nella protezione civile è rimasta storica, che è Zamberletti, e c'è stata la costituzione prima di un Ministero per il coordinamento della protezione civile, e poi nel 92 la costituzione, cioè prima nell'82 la costituzione del Dipartimento di Protezione Civile, e poi nel 92 un'estensione a un sistema nazionale di protezione civile. E di lì in poi l'evoluzione ha avuto diverse fasi in cui di fatto c'è stata una fase in cui è stato un po' ridimensionato il peso che era che aveva la protezione civile durante gli anni fine anni 90, per arrivare poi al periodo del periodo d'oro della protezione civile, che è quello di Bertolaso negli anni tra il 2001 e il 2010. Durante questo periodo si è raggiunto appunto l'apice del potere della protezione civile, in quanto tanto che si è arrivati a percepirlo come un organo con cui gestire veramente il potere in maniera straordinaria, tanto che fu presentata una proposta per la privatizzazione della protezione civile, che poi venne bocciata in aula, e successivamente agli eventi dell'Aquila la protezione civile è stata in una qualche forma ridimensionata, i poteri della protezione civile sono stati in qualche maniera ridimensionati, fino ad arrivare al decreto legislativo, che è la normativa unica della protezione civile, che è stata varata nello scorso anno. Proseguo, mi sentite? Sì. Sì, sentiamo assolutamente. Non so, in realtà mi sa che non si è sentita bene l'introduzione, quindi rifarei brevissimamente il perché. Non so se anche voi collegati avete sentito l'introduzione data, ma l'idea è quella: parliamo di protezione civile per rivederla nel contesto del tema di quest'anno di Entropia Massima, scienza e potere, e quindi l'idea di la protezione civile come appunto emanazione diretta della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui territori in situazioni di emergenza, e il suo poi collegamento pratico nella sua azione con gli aspetti scientifici, ovviamente, cioè la base del suo operato e come avviene questo scambio. Quindi ecco, questo primo excursus storico ci ha un po' inquadrato la protezione civile come è evoluta nella storia, ma il suo diciamo l'aspetto fondamentale che andiamo a vedere, i due aspetti fondamentali sono appunto rapporto con il potere, rapporto con la comunità scientifica, potere politico ed economico ovviamente. Quindi direi su questo l'aspetto appunto storico, cioè il come è cambiata la protezione civile, poi nel suo agire, nel suo approccio della gestione delle emergenze. Una cosa fondamentale, Luca, ti richiederei diciamo le fasi dell'azione della protezione civile, le quattro fasi con le quali agisce diciamo tutto l'apparato della protezione civile. Sì, Chiara, io comunque mi sento malissimo, spero che gli ascoltatori non ti sentano come ti sento io. Comunque, perfetto. Di fatto la protezione civile è un sistema che ha la funzione di agire come dicevi tu, in quattro fasi, sia in quella di previsione degli eventi che possono avvenire, quella di prevenzione, quindi di ridurre il danno potenziale che deriva da questi eventi, e quella di intervento proprio durante gli eventi, e quella di superamento dell'emergenza. E di fatto in questa azione è supportata da tutta una serie di figure che collaborano con la protezione civile, che sono diversi pezzi dello Stato, come appunto le regioni, i ministeri, le regioni e tutte quante gli enti locali, e poi fondamentale struttura fondamentale a supporto della protezione civile sono tutte le forze armate, le forze di polizia, il volontariato, e poi anche, come dicevi prima, gli enti di ricerca, che i principali connessi con eventi naturali e anche antropici, quelli che lavorano su questo tipo di eventi, sono a supporto della protezione civile. Okay. Gli enti in questo senso la comunità scientifica contribuisce all'azione di protezione civile in ognuna delle quattro fasi che abbiamo detto prima, e inoltre interviene in due organi proprio della protezione civile, che sono la Commissione Grandi Rischi e il Comitato Operativo. La Commissione Grandi Rischi, che è un insieme di super esperti di diversi tipi di evento naturale, quindi c'è la Commissione Grandi Rischi per il settore vulcani, il settore terremoti e alluvioni e così via. E il comitato operativo, nel comitato operativo ci sono gli enti di ricerca principali, quindi l'INGV, il CNR e l'ISPRA, e c'è anche l'ENEA, e la comunità scientifica collabora anche attraverso delle figure che sono definite centri di competenza, che sono sia gli enti di ricerca pubblici, sia enti di ricerca e principalmente fondazioni, quindi private, che sono costituite, proprio partecipate dalla protezione civile, ossia sono state create, strutturate, organizzate proprio su mandato della protezione civile, e alla protezione civile di fatto rispondono. E di queste in particolare ricordo la RELUIS, che è un insieme di studi universitari che si occupano di sismica, ingegneria sismica, Eurocenter, che è un altro analogo su questo tema, e CIMA, che è la fondazione che si occupa fondamentalmente di rischio idrogeologico. Queste tre sono private. Benissimo. Tutto? Sì, ci siamo, mi senti? Sì, sì. Benissimo, chiarissimo il contesto, e farei brevissima interruzione musicale per poi passare al dialogo con Marco delle BSA. Roll another. La la ta ta ra ra la ta ta la la la la la la la la la la la la. Yeah. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. La la, my room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La la la da da da da. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. La da. I'm taking it next semester, and I know why. Why, man? Yeah. Because I got high, because I got high. Go to the next, go to the next, go to the next. I was gonna go to court, yeah, before I got high. I was gonna pay my child support, but then I got high. No, you wasn't. They took my whole paycheck, and I know why. Why, man? Yeah, because I got high, because I got high, because I got high. La da da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high. I'm serious, man. I was gonna pull right over and stop, but I was high. La da da. Now I'm a paraplegic, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da da da. I was gonna make love to you, but then I got high. I'm serious. I was gonna eat your too, but then I got high. Now I'm and I know why. Yeah, because I got high. Hey, because go. Because I got high. Hey, do that over, because man. I got high. Come on, man. Don't, go, come on, go, man. Go, go. I messed up. E allora ritorniamo in voce, Entropia Massima su Onda Rossa. Parliamo di scienza e potere oggi sulla protezione civile, sulla gestione della protezione civile nel tempo, come è cambiata e quali sono i rapporti con la politica e con la comunità scientifica, facendo da snodo, da rapporto. E vediamo appunto la prima parte, quindi come è cambiata nel tempo dal punto di vista delle relazioni, cioè da come cambia poi il governo fondamentalmente. E infatti, buonasera a tutti, ciao ciao a chi sta in collegamento e ciao ai fratelli e sorelle, compagni e compagne all'ascolto. Un momento interessante, critico, terribile per la protezione civile è stato proprio il decennio, diciamo, tra il 2000, tra la fine della gestione, da dopo, diciamo, la missione Arcobaleno, tra la fine della gestione Barberi, il ripristino del Dipartimento di Protezione Civile ad opera nel 2001, ad opera del governo Berlusconi, e poi tutto quello che noi conosciamo da queste parti parecchio bene sotto il nome, diciamo, onnicomprensivo di gestione Bertolaso, quando la protezione civile piano piano, poi neanche tanto piano piano, quando la protezione civile, il dipartimento è diventato un enorme ente in grado di gestire praticamente qualsiasi cosa. Progressivamente il fatto di avere dei poteri conferiti e il conferimento di questi poteri a un uomo che poi si è rivelato super potente, c'è chi dice che, insomma, perché per parentela addirittura con Ruini, insomma, ci sono state dette varie cose. Comunque l'uomo speciale, poteri speciali ad un uomo speciale incarnato da Guido Bertolaso. La protezione civile di Guido Bertolaso è diventata una protezione civile in grado di gestire praticamente qualunque cosa in deroga a qualsiasi norma, senza entrare nel racconto che è agghiacciante, che ci ha visto fino a un certo punto. Anche noi, diciamo, ci siamo resi conto di questa cosa progressivamente, criticando prima le singole parti per poi renderci conto, in particolare con la vicenda del terremoto dell'Aquila, la gestione dell'emergenza dell'Aquila, di stare di fronte a un vero e proprio sistema di potere enorme che gestiva qualsiasi cosa. E la protezione civile è andata avanti, diciamo, in quegli anni con ordinanze in deroga a tutte le norme, fino ad arrivare a gestire, tanto per dirne qualcuna, la Whitton Cup, i mondiali di nuoto a Roma, ecco, leggevamo poco fa l'acquisto di 184 milioni di euro per le dosi, per 24 milioni di dosi di vaccino contro l'influenza aviaria senza gara, l'influenza aviaria direttamente da Novartis, dosi che poi furono iniettate in un numero di 800.000 e l'emergenza di influenza aviaria non c'era. Avevamo detto la Whitton Cup, il G8 della Maddalena, i mondiali di nuoto, ma in realtà il sistema di potere messo in atto dal duo Berlusconi e Bertolaso, con la gestione allegra e assolutamente personalistica di tutti gli appalti, da tutti gli eventi del Papa ci stanno in questa cosa qui, è andata avanti nel decennio, più o meno dal 2001 al 2010, attraverso l'emissione di circa, leggevo oggi, circa 700 ordinanze 700 ordinanze in deroga, e soltanto nel 2009 sono state 105, una ogni 3 giorni. La spesa stimata totale è stata, di cui non si sa molto perché era esterna a qualsiasi controllo della Corte dei Conti e a qualsiasi controllo, diciamo, del Parlamento, è oscilla tra 10 e 15 miliardi di euro. Alcune cose le sto prendendo da un articolo tratto dal libro del 332 che abbiamo presentato poco tempo fa. Comitato 332 dell'Aquila, a cui va il merito di aver sollevato per primo e di essersi reso conto che la protezione civile si stava trasformando addirittura in una SPA pubblica, cosa che non era nuova e non è mai stata nuova nel periodo dal 90 al 2010. Molti servizi dello Stato, compresa la gestione degli impianti nucleari, tanto per dire una di cui conosciamo qualcosa, state formate delle SPA a partecipazione totale. Questa qui sarebbe stata un'SPA particolare, perché l'azionista di maggioranza non sarebbe stato, come accade molto spesso, un ministero, ma sarebbe stata direttamente la presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi oltretutto con quel progetto di legge, se non sbaglio, quello che era, c'era anche la proposta di dare l'immunità ai commissari. Molte cose sono ancora coperte da segreto, se non è cambiato qualcosa, tipo la gestione del G8 tra Maddalena e L'Aquila, e quindi non si sa bene quanto è stato speso. In questo delirio d'onnipotenza c'è stata pure, l'abbiamo ricordata decine di volte in questi anni, la negazione, il tentativo di negazione del terremoto. Come ha detto Boschi, ex capo dell'ex presidente dell'INGV, recentemente scomparso, inquisito, però come ha detto Boschi, lui, quindi l'ha detto Bertolaso, si era montato la testa con gli elicotteri, le cose, e quindi il terremoto a lui gli dava fastidio e quindi ha tentato di negarlo. Quindi in realtà nel primo decennio degli anni 2000 siamo stati vittime tutti di una presa di potere assurda, e per fortuna ci sono stati gli anticorpi. Luca credo che abbia ricordato che recentemente si è tornati indietro, quindi adesso la protezione civile è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, sono stati stralciati grandi eventi, è tutto ovviamente, poteva essere anche il ritorno al nucleare del 2010 il grande evento, sono stati dati dei limiti e quindi sono state, diciamo, ridefinite delle competenze un po' più diciamo confinate della protezione civile, che non ha più, quindi non accede più il capo della protezione civile, non accede più a questo potere sconfinato, che chissà cosa sarebbe potuto diventare se non si fosse rotto qualcosa proprio probabilmente in coda. Tra l'altro uno degli elementi, ecco, mi piace ricordarlo, perché uno degli elementi che hanno messo in crisi quel modello è stato proprio la gestione dell'Aquila e del post-terremoto dell'Aquila, dove oltre a tutto quello che potremo ricordare decine di volte, il popolo delle carriole entrando in centro per prendere le macerie mise in evidenza che l'uomo, i poteri speciali all'uomo speciale, alla protezione civile dell'uomo che fa, il fare, il far facendo, qualunque cosa potesse incarnare Bertolaso non era vera, perché a distanza mi pare di 4-5 mesi dal terremoto le macerie erano tutte là e addirittura il sistema Bertolaso arrivò, si coprì di ridicolo sequestrando delle carriole in cattivo stato di conservazione, dice il coso. Quello lì è, diciamo, non è ovviamente probabilmente l'unico elemento per cui è andato tutto in crisi, ma è stato comunque l'elemento attraverso il quale ci siamo resi conto del fatto che sta roba stavamo per essere fagocitati, forse. E non che manchino critiche successive alla protezione civile, ma quel momento lì è stato particolarmente pericoloso, forse, a vederlo 9 anni dopo. Oggi, in occasione di qualche anniversario del terremoto, non mi ricordo se ad aprile o se st'estate, Bertolaso ha detto che ad Amatrice ci stanno i radical chic a gestire le emergenze e che quel modello suo del 2009 era l'unico, perché all'Aquila è tutto in ordine, cazzo. Non ha detto cazzo, ma ha detto radical chic. E l'ho letto oggi e quindi st'estate se lo rivendica pure, quindi quel modello rimane per Bertolaso, speriamo solo per lui, un modello da seguire. Ecco, proprio su questo passerei la parola a Marco, se ci sente. Ci sei, Marco? Sì, ci sono, buonasera a tutti. Ciao Marco. Ciao a tutti. Perfetto. E la cosa è proprio su questo, nel senso le brigate di solidarietà attiva sono proprio nate in risposta, penso, a questo tipo di situazione, o comunque racconta come, da dove nascono e quali sono state le esigenze alle quali le necessità alle quali volevano rispondere le brigate di solidarietà attiva. Allora, noi siamo nati in realtà da un discorso di recupero della antica tradizione ottocentesca del mutualismo delle società operaie e del movimento operaio. Nasciamo però all'Aquila da un punto di vista organizzativo perché ci rendiamo conto che c'era il luogo e il momento per una solidarietà attiva in un contesto nel quale la gestione militare affaristica che si andava configurando, che si è configurata subito dopo l'evento sismico, lasciava indietro e in sofferenza pezzi di popolazione, soprattutto i più deboli, e nasceva con uno scopo diverso rispetto a aiutare la popolazione, perché l'Aquila, sono state dette tante cose, l'Aquila è il luogo delle New Town, cioè della concezione della risposta temporanea al terremoto attraverso la costruzione di 19 nuove microcittà ai margini della città da ricostruire. Quindi diciamo ha assunto connotazione di delirio, di onnipotenza non indifferenti. Le brigate nascono fuori da tutto questo sistema, in alternativa a questo sistema, per aiutare la popolazione ad aiutarsi e aiutare tutti quei fermenti che a questo delirio di onnipotenza si opponevano, quindi il 332 aquilano, tutti i comitati o comunque quelle forme spontanee di riorganizzazione della popolazione che in quel momento si davano sul territorio. Facciamo un'assistenza concreta alla popolazione, ci occupiamo addirittura anche di alcuni campi, entriamo in un contrasto spaventoso ovviamente con la militarizzazione che il territorio aveva. Ricordo che per attraversare da un campo all'altro c'erano le barriere e i posti di blocco tipo zona di guerra, e senza un pass non si andava da nessuna parte, un figlio non poteva andare a trovare la madre senza adeguato pass se erano in due tendopoli diverse, questo nella prima emergenza. Dove operiamo noi invece si aprono degli spazi, si organizzano assemblee, non solo ovviamente da noi, penso al famoso luogo di incontro che fu poi rappresentato proprio dal 332 e dal campo di comunicazione anche mediatica, che fu importantissima per far capire quello che succedeva realmente, e quindi nasciamo per contrastare in qualche modo tutto ciò, facendo capire alla popolazione che potevano essere aiutati in maniera diversa da come venivano aiutati in quel contesto. Detto questo, poi la protezione civile è cambiata, diciamo, nel corso del tempo. Nell'intervento sia in Emilia nel 2012, dove pure noi abbiamo operato, sia nel 2016 nel cosiddetto terremoto Centro Italia, cioè un terremoto senza nome, ovvero le quattro scosse che hanno colpito prima Matrice e Arquata il 24 agosto 2016, poi il 26 e il 30 ottobre sempre del 2016 e poi il 18 gennaio 2017 il Centro Italia, lì abbiamo visto cose molto diverse da un punto di vista dell'approccio di protezione civile. Quello che però non è cambiato e che è il frame unificante di tutte le cose, cioè tanto della, dell'irrio di onnipotenza all'Aquila, tanto del caos attuale sulla zona del cratere a 3 anni dal sisma, in molti luoghi ci sono ancora le macerie in terra, è il fatto che la protezione civile è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio. Se questo da un lato serviva per connetterla direttamente col potere politico e ottenere provvedimenti necessari all'operatività, dall'altro lato rende la protezione civile nei fatti, nella nostra esperienza concreta, uno strumento per l'improvvisazione del Presidente del Consiglio di turno rispetto alle ricette da dare all'intervento post sisma più che in emergenza, cioè la quarta fase di cui si parlava prima. Questa viene reinventata di terremoto in terremoto. L'Aquila ha avuto una sua storia, l'Emilia un'altra, il terremoto Centro Italia un'altra. Ogni occasione è l'occasione per far esercitare un po' di scienza, che però poi subisce una scelta politica tra le soluzioni che più piacciono al potere politico, che attraverso la protezione civile poi le applica sul territorio. E il post emergenza diventa drammatico, perché tutti gli studi ci dicono, e ci abbiamo lavorato anche noi con una chiamata che ha chiamato ricercatori a analizzare il post sisma del terremoto Centro Italia, costituendo poi il collettivo di ricerca media di Treviri, il post sisma diventa generativo nel tempo sospeso tra l'evento e la ricostruzione, che quando va bene sono 10 anni, diventa generativo di nuovi modelli sociali, urbani e economici dei territori colpiti. Quindi il post emergenza o la fuoriuscita dall'emergenza, gestita nel puro arbitrio delle leggi speciali, diventa il riplasmare un territorio prima della ricostruzione. Quando avviene la ricostruzione è di fatto segnata da come è stato gestito il post emergenza. Tutto ciò perché in Italia non esiste una legge quadro che disciplini che cosa si fa dopo che è accaduto un sisma e che sposti questo potere dall'intervento straordinario, dalla legiferazione emergenziale straordinaria, quindi dal puro arbitrio del potere politico di turno, alla pianificazione del territorio. Da anni, proprio dai movimenti aquilani, noi Brigate di Solidarietà Attiva abbiamo imparato che si potrebbe riportare sul territorio la pianificazione del disastro, perché che sulla dorsale appenninica accadranno terremoti è una certezza assoluta, dove accadranno è anch'essa una certezza assoluta, che proprio i geologi ci insegnano, non sappiamo quando, ma una cosa che sia spazialmente che concettualmente sappiamo per certa non può essere un'emergenza, deve essere una cosa che possiamo pianificare, esattamente come i comuni hanno un piano regolatore, i comuni dovrebbero avere una pianificazione del post emergenza, cioè se accade un sisma faccio le new town come all'Aquila, faccio le casette temporanee sbancando intere colline come a Fiastra nella provincia di Macerata, utilizzando tra l'altro casette incongrue per una zona mondana perché fatte su una gara d'appalto prodotta e progettata per l'Emilia Romagna, o faccio dell'altro perché conosco il territorio, vivo quel territorio e quindi sono in grado di pianificare come la mia popolazione vivrà rimanendo sul territorio nel tempo sospeso tra evento sismico e ricostruzione? Questo in Italia manca, e manca perché ovviamente il potere politico di turno, tra affari, corruzione o semplicemente spettacolo, ci tiene a fare la sua, perché poi quando i riflettori si spengono il disastro che viene lasciato sui territori non lo vede più nessuno. Noi siamo da 3 anni ancora impegnati nel cratere Centro Italia perché è un esempio classico di governance senza governo e dove si sta producendo un disastro inedito che proviamo ad affrontare con progetti di medio-lungo periodo di affiancamento all'auto-organizzazione della popolazione che prova a resistere. Ok, Marco, grazie Marco. In realtà su quel... Sì? Luca voleva dire qualcosa? Luca? Posso? Sì, sì, certo. Ma guarda, sono profondamente d'accordo con Marco, e il quadro che dipinge lo condivido completamente. La considerazione della mancanza della capacità di pianificare il post emergenza è sicuramente un aspetto grave. E devo dire che però lo contestualizzerei alla realtà italiana, e peraltro facendo presente che la realtà italiana, la protezione civile italiana comunque rimane un riferimento a livello internazionale, cioè la capacità di affrontare le emergenze che ha la protezione civile italiana è un'eccellenza a livello internazionale, non perché mi voglia far vanto di questo aspetto, ma per renderci conto che a livello proprio globale e anche cioè la gestione dell'emergenza è ancora qualcosa che non è proprio vissuto facilmente, e noi già stiamo molto avanti. Peraltro il problema è che ancora la protezione civile italiana è un'eccellenza, però ancora stiamo molto lontani da una gestione ragionevole anche dell'emergenza stessa, con tutto il fatto che l'emergenza anche l'ultima del centro Italia è stata gestita, io parlo della fase emergenziale, in maniera egregia, perché veramente abbiamo avuto la possibilità di vedere sul territorio una capacità di mobilitare diverse forze dello Stato che è stato risolutiva per tanti aspetti. Però ancora si manca non del post emergenza, ma anche dell'emergenza stessa, perché ad esempio il dover allestire le aree di realizzazione delle aree di collocazione delle tende, dei magazzini, qualcosa c'è nei piani di protezione civile, ma è qualcosa che è abbastanza disatteso, non è uno strumento, il piano di protezione civile non è uno strumento particolarmente vissuto dalle amministrazioni locali, dalle amministrazioni locali e men che mai dalla popolazione. Faccio l'ultimo esempio e chiudo qui. La settimana scorsa è stata l'esercitazione per il piano per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. Intanto siamo a un evento eccezionale che ci sia un'esercitazione del genere in un'area che è sottoposta a un rischio incredibile, e comunque ha visto una messa in campo, un coinvolgimento della popolazione modestissimo, cioè hanno partecipato qualche migliaio di persone a fronte di 500.000 persone che vivono nella zona rossa. Quindi ancora siamo molto lontani dal riuscire ad avere un'azione di emergenza ragionevole, e condivido con Marco che quindi anche l'aspetto post emergenza c'è ancora molto da lavorare. Allora, volevo chiedere brevissimo, e poi ci salutiamo con Marco, proprio per come funziona la non emergenza. Durante le fasi appunto in cui le brigate non sono attive sul territorio, come siete organizzati, come gestite i vostri contatti, la vostra organizzazione, insomma? Allora, le brigate sono essenzialmente una pratica, quindi sono un fare. Fuori da un fare di fatto non esistiamo, perché tutti possono essere dei briganti. Le brigate funzionano a chiamata dentro una progettualità che hanno collaudato negli anni di intervento. Diciamo che non interveniamo solo in situazioni di emergenza sismica, e quindi c'è quasi sempre un fare, perché siamo intervenuti sulle alluvioni in Liguria o a Livorno negli ultimi anni, ma siamo anche intervenuti con un progetto come quello di Nardò in Puglia, di assistenza ai lavoratori sfruttati e ridotti in condizione di schiavitù nelle campagne della Puglia, nel lavoro agricolo, con la campagna Ingaggiami contro il lavoro nero, e che ha generato dalla possibilità di ragionare sul salario e sullo sfruttamento in un campo meno abbrutente di quello che normalmente si trovano a vivere, il primo sciopero di cui si abbia memoria in Europa per il salario dei lavoratori migranti. Così come in questo momento siamo impegnati in interventi di rigenerazione ecosociale con la Brigata Bergamo, che opera su un progetto che si chiama Ecosebino, cioè le pendici di un lago contaminate da tonnellate di gomma, di rifiuti del distretto della gomma, che su quel territorio ha avuto un'incidenza economica enorme nel corso degli anni passati, oppure a Lampedusa, dove operiamo da anni su tanti terreni, ma proprio sul terreno di un'isola abbandonata a se stessa, non solo come accoglimento e frontiera diciamo rispetto ai flussi migratori, ma anche perché la stessa Lampedusa è un insieme di scariche, rifiuti abbandonati qua e là, che stiamo mappando e che stiamo insieme alla popolazione contribuendo a risanare per dare un senso di missione a una solidarietà che riguarda anche chi quell'isola continua a viverla e spesso la vive fuori, diciamo, dall'egoismo che contraddistingue la nostra epoca. Quindi le brigate fuori dagli interventi sisma, non direi cosa sono fuori dalle pratiche, dall'azione, perché fuori da un'azione diretta e da una pratica non sono niente, sono dormienti, ragionano nella migliore delle ipotesi sulle cose future da fare, ma purtroppo abbiamo sempre cose da fare e quindi siamo tante cose a seconda dei contesti dove operiamo. Ok, io ringrazio Marco e ci siamo incontrati anche in vari ragionamenti, sia nelle pratiche che nei ragionamenti. In realtà di cose di cui ragionare ne restano tante. Una trasmissione, abbiamo tanto toccato l'inizio, no? Semplicemente restando al sisma, alla pericolosità sismica, ci sarebbe da dire e ci sarà da dire, lo faremo sul sisma bonus, che è questa proposta che si è inventata dal governo, che andrebbe meglio, come minimo andrebbe meglio modulata. Poi c'è da ragionare su quello a cui accennavano sia Luca che Marco, del fatto che ogni terremoto è un'isola, non so se l'hanno detto così, comunque l'estemporaneità come regola, diceva pure qualcun altro, nel senso ogni volta il meccanismo dell'eccezionalità, anche se ultimamente c'è stato, mi pare, un evento sismico ogni 4 anni e mezzo più o meno, comunque non lo rende per niente, come diceva bene Marco, eccezionale. Quindi andrebbe fatto un ragionamento sul se è opportuno fare una legge quadro o comunque cercare di averci un approccio più organico, altrimenti si creano 6 uffici della ricostruzione diversi che neanche si conoscono personalmente, addirittura 2 sullo stesso territorio, come sta accadendo in centro Italia. Quindi ci sono parecchi elementi da approfondire. I piani Luca faceva riferimento ai piani di emergenza comunali. I piani di emergenza comunali, come giustamente ha detto Luca, sono prevalentemente inutilizzabili e inutilizzati, e invece andrebbero potenziati come strumento, anche come strumento culturale e come strumento educativo, secondo alcuni. Tanto per dirne un'ultima, così facciamo la sensazione, sono stato a un convegno in cui la Protezione Civile di Reggio Calabria aveva fatto delle simulazioni sul se avvenisse ora il terremoto dell'inizio del secolo di Messina, ci sarebbero proiezioni spaventose, insomma decine di migliaia di vittime, di danni pazzeschi soltanto a Reggio Calabria. Quindi in questo contesto sono proiezioni ufficiali, come si fa, come possiamo noi come comunità resistente interagire, perlomeno trovando delle proposte e ragionando. Allora, siamo evidentemente andati abbastanza lunghi, quindi rimandiamo a una prossima trasmissione, diciamo, l'aspetto

che cosa vuole fare su questo tema l'attuale governo. Noi ci eravamo lasciati, probabilmente ne avevamo parlato l'ultima volta prima dell'estate, e quindi con il governo giallo-nero, ora siamo con il governo giallo-arancione, giallo-giallo, e purtroppo non ci sono novità, nel senso che come Movimento per l'Acqua abbiamo provato a avviare un'interlocuzione con le forze politiche, con i gruppi parlamentari, per sondare un po' il terreno di che cosa si voleva fare rispetto a una discussione sulla legge per l'acqua che è iniziata.